Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Cos'altro hai? Secondo alcuni funzionari della Casa Bianca, Hunt senza dubbio lavorava lì come consulente di Coulson. Si tratta di Charles Coulson, consigliere particolare del presidente. Hai chiamato l'ufficio stampa della Casa Bianca? Ci sono andato, hanno detto che Hunt non lavorava lì da 3 mesi. Un tizio poi se n'è uscito con una strana frase. Ha detto: sono convinto che né il signor Coulson né nessun altro alla Casa Bianca era a conoscenza di o aveva partecipato in questo deplorevole incidente al Comitato Nazionale Democratico. Beh, non è quello che ti aspettavi di sentirti dire. Proprio così. E allora? Ma non avevo parlato del Watergate. Avevo chiesto solo cosa faceva Hunt alla Casa Bianca. Hanno affermato che non era colpevole quando nessuno gliel'aveva chiesto. Attento a come lo scrivi. Si comincia spesso così, come descritto nel film Tutti gli uomini del presidente. Una notizia da verificare, il fiuto che dice qualcosa, il caporedattore che non vuole rischiare troppo. Non ci fossero di mezzo la Casa Bianca, il Partito Democratico e la voce di Robert Redford, sembrerebbe un comune confronto in una qualsiasi redazione di un quotidiano. Mestiere duro quello del giornalista, sempre in bilico tra l'etica e l'estetica, la neutralità e le emozioni, tra il dovere di cronaca e il diritto di tacere. Certo, non capita spesso di trovare degli scassinatori che violano il quartier generale di un importante partito, il numero di telefono di un enigmatico uomo e una gola profonda che riempie gli spazi vuoti. Ma se per caso la situazione si presenta, è giusto andare fino in fondo, finire l'articolo e mandare tutto in stampa. Il riconoscimento del proprio lavoro è da sempre la luce che ogni professionista intravede alla fine del tunnel. Vale quindi anche per i giornalisti e vale ancora di più da quando alla luce si è sostituita una giuria, un premio e gloria in peritura. L'indipendenza dei giornalisti dipende solo dagli attributi dei giornalisti e per attributi voi sapete cosa intendo. Sono proprio quelli. Quando uno li ha, non c'è editore che lo metta sotto. Non è possibile, perché non per nulla, ma perché il giornalista indipendente fa paura a tutti e noi dobbiamo far paura agli editori. Questo dovete fare, fargli paura. È una delle tanto argute quanto mai attuali esternazioni del grande Indro Montanelli a spalancarci le porte per la storia di oggi. Una storia fatta di scoop e sensazionalismi, di battaglie all'ultimo rigo e di querele. Una storia a cavallo di 2 secoli, in cui 2 pensieri in bilico tra il senno e la follia troveranno un punto d'incontro per consegnare al mondo un'importante eredità. Una storia di poteri in lotta fra loro. Una storia che ha una sola, unica e indiscussa protagonista. Ehi! Hutchinson! Questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. E tu non ci puoi far niente, niente. La schiavitù o altra forma di costrizione personale non potranno essere ammesse negli Stati Uniti o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non come punizione di un reato per il quale l'imputato sia stato dichiarato colpevole con la dovuta procedura. Stati Uniti d'America, anno del Signore 1864. Quello che avete appena sentito è il testo del 13° emendamento che un anno più tardi andrà a integrare la Costituzione americana. Per il momento, tuttavia, l'emendamento proposto dai rappresentanti James Mitchell Ashley, repubblicano dell'Ohio, James Falconer Wilson, repubblicano dell'Iowa, e John B. Henderson, senatore democratico del Missouri, ha avuto un effetto domino in senso negativo, trascinando la giovane democrazia in una sanguinosa battaglia. È in atto infatti una delle pagine più drammatiche della storia a stelle e strisce, la guerra di secessione, in cui stati del nord e del sud si fronteggiano senza esclusione di colpi. Per i sudisti, dopo l'elezione di Lincoln, l'obiettivo è la separazione, in risposta alla volontà del neo presidente di abolire la schiavitù. Per i nordisti invece lo scopo è mantenere l'unione e portare avanti il sogno americano. In mezzo agli scontri troviamo un ragazzo magiaro di origine ebrea di soli 17 anni. Figlio di commercianti ungheresi, è da poco approdato dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, reclutato da un generale conosciuto in Germania. Il giovane è dovuto emigrare a causa della bancarotta che ha coinvolto la famiglia in seguito alla morte del padre. Il suo nome è Joseph Pulitzer. Joseph Pulitzer. Joseph si è così spostato da Macau, un paese a 200 km da Budapest, a Boston per tentare fortuna. Arruolato nelle file dei nordisti, il giovane Pulitzer si ritrova suo malgrado coinvolto nei combattimenti per quasi un anno, fino a quando l'esercito del nord conquista la vittoria. Terminata la guerra, immerso in un paese alle prese con una lenta fase di assestamento, per Joseph Pulitzer comincia un periodo complicato, in cui i tentativi di trovare stabilità si scontreranno con le difficoltà causate dalla sua scarsa conoscenza della lingua. Dopo qualche mese passato ai limiti dell'indigenza, Joseph decide di trasferirsi. Andrà a St. Louis, dove ad accoglierlo ci sarà una folta comunità tedesco-americana e un futuro pieno di incognite. With the diamond rings. She pulls her man around by her apron strings. She wants for powder and for store-bought hair. The man she loves, he wouldn't go nowhere. La realtà del giovane Pulitzer a St. Louis comincia a trovare una sua dimensione. Dopo mestieri come il portatore di muli, lo scaricatore di porto, il cameriere, il contabile, arriva finalmente un'occasione importante. A concedergliela è Carl Schurz, uno dei leader della comunità tedesco-americana del luogo, che lo ingaggia come corrispondente per il suo giornale, il Post-Westlicha. Per il nostro protagonista, Schurz rappresenta più di un punto di riferimento. La sua autorità in campo politico e giornalistico, unita al fatto di essere uno straniero, oltre a un grande stimolo, sono la prova che l'America può essere davvero una grande opportunità anche per un immigrato. Per questo motivo, Joseph si butta anima e corpo nel mestiere e nel giro di poco tempo riesce a ricavarsi un posto fisso nelle file del giornale. Lasciati alle spalle i ricordi di una gioventù tribolata, per Pulitzer inizia un periodo di attività frenetica in cui, pur senza intaccare la sua passione per il giornalismo, la politica irrompe nella sua vita. L'ungherese, infatti, nel frattempo diventato cittadino americano, comincia a partecipare attivamente alla sfera pubblica, mettendo in campo tutta la sua abilità e la sua malizia di immigrato. Democratici e repubblicani, più che due ideologie diverse, diventano agli occhi di Joseph come due sponde unite da un ponte, che il nostro protagonista si diverte ad attraversare senza troppi problemi, mettendo in mostra capacità oratorie e organizzative. È un modo per stringere amicizie e alleanze, un modo per garantirsi un futuro e per continuare a sognare. Un modo, forse, come ha detto Giorgio Bocca, per essere giornalisti. Non si può essere considerati giornalisti se non si ha il coraggio di dire la verità. E la verità non è né di sinistra né di destra. La verità è che Joseph Pulitzer ci sa davvero fare. Il ragazzo timido e spaurito che era arrivato a St. Louis adesso è stato sostituito da un uomo intraprendente, scaltro e ambizioso. La scalata all'interno del suo giornale ne è la prova più lampante. Joy l'ebreo, o Joy il tedesco, come viene soprannominato, lavora anche 16 ore al giorno fino alle 2 di notte. E ha un talento innato nel reperire le notizie. Non si limita a rimanere un semplice cronista, ma scala le gerarchie diventando presto capo redattore. Non stupisce che qualche tempo più tardi diventi proprietario di una parte del giornale. E non stupisce che nel 1872 il Westlich Post diventi suo. Pulitzer si è comprato per $3,000 il giornale per cui aveva cominciato a lavorare come corrispondente. Sono passati poco più di 6 anni. Finita qui? Ma che? Ci vogliono ancora 6 anni e Pulitzer mette le mani anche sull'altro giornale della città, il St. Louis Dispatch, questa volta per $2,700. L'idea è quella di accorparli. Nasce così il St. Louis Post Dispatch, il quotidiano cittadino che ancora oggi informa e tiene compagnia agli abitanti della capitale del Missouri. Ecco, bravo Roveda. Siediti là. Tu sai quante copie tira il giornale, vero? 500.000. Tutta l'opinione che conta nel paese. Sì, gente che magari legge anche altri giornali, di altro colore. Ma che alla fin fine si rivolge a noi, al giornale, per sentire dalla sua voce una parola pacata e definitiva. E questa voce, Roveda, deve essere sempre la stessa. Dalla prima riga dell'editoriale all'ultimo annuncio economico. Sì, sono d'accordo. Chi è il nostro lettore? È un uomo tranquillo, onesto, amante dell'ordine, che lavora, produce, crea reddito. Ma è anche un uomo stanco, lo veda, scoglionato. I suoi figli invece di andare a scuola fanno la guerriglia per le strade di Milano. I suoi operai sono sempre più prepotenti, il governo non c'è, il paese è nel caos. Apre il giornale per trovare una parola serena, equilibrata. E che cosa ci trova? Questo dialogo tratto dal film Sbatti il mostro in prima pagina di Marco Bellocchio ben rappresenta la nuova vita del Pulitzer adulto e le sfide che andrà ad affrontare. Un Pulitzer che si è lasciato alle spalle l'indigenza e la precarietà che lo avevano perseguitato da giovane. Un cittadino ebreo-americano di origine ungherese che parla tre lingue, che può vantare un'invidiabile ricchezza e che ora può concedersi il lusso di scegliere. Scegliere cosa fare, che nella sua testa significa tornare a New York per intingere la penna nel calamaio e lasciare un segno indelebile nella storia del giornalismo mondiale. Non esiste modo migliore per affrontare New York che quello di arrivarci con le tasche piene di soldi e una gran voglia di stupire sotto braccio. Ed è esattamente questa la fotografia del Pulitzer che fa ritorno nella Grande Mela. Un proprietario di giornali tutt'altro che appagato dalla propria attività, che nascosta tra l'editoriale e gli annunci economici citati nel film di Bellocchio, tiene stretta la volontà di lasciare un segno nel mondo della carta stampata. Anche New York stessa sembra ribollire di una strana energia. Per ora si limita ad accogliere un numero sempre maggiore di immigrati, ma a breve arriveranno la Statua della Libertà per gentile concessione dei francesi e l'accorpamento di Manhattan e Brooklyn che le doneranno l'ineguagliabile e definitivo appeal. Si tratta quindi solo di trovare l'occasione giusta, che nella vita, a quanto pare prima o poi, arriva. Nel 1883 Joseph Pulitzer acquista per $346,000 dall'imprenditore Jay Gould il New York World, un giornale che stava perdendo $40,000 all'anno. Una scommessa azzardata, una scelta che sembra fatta su misura per lui, una scelta che si rivelerà vincente. Il nostro protagonista ha bene in mente quali saranno le caratteristiche che dovrà possedere. Esprimi il tuo pensiero in modo conciso perché sia letto, in modo chiaro perché sia capito, in modo pittoresco perché sia ricordato e, soprattutto, in modo esatto perché i lettori siano guidati dalla sua luce. Le tappe del successo di Pulitzer bruciano in fretta e il merito è tutto della sua impronta editoriale. Il New York World è il primo giornale a pubblicare annunci commerciali. Richard Outcault, fumettista e disegnatore, viene ingaggiato per illustrare la vita nei quartieri più poveri. Elizabeth Jane Cochran, meglio conosciuta sotto lo pseudonimo giornalistico di Nellie Bly, viene assunta poco dopo per condurre le inchieste più importanti, per il suo fiuto e la sua capacità di agire sotto copertura. Nel giro di pochi anni, il giornale, dalle 15.000 copie di partenza, arriva a una tiratura di ben 600.000 copie, diventando il primo quotidiano nazionale. Pulitzer ha dato una rimescolata al mondo dell'informazione, trovando nelle storie di tutti i giorni, negli scandali piccoli e grandi e nei sensazionalismi le chiavi per il successo. Una scelta ardita che lo porterà spesso a rivedere i confini della deontologia professionale. Una scelta che, dall'altro lato, lo avvicina sensibilmente alla popolazione degli immigrati che trovano nel suo giornale un appiglio concreto nel processo di integrazione nella società americana. Una scelta, quindi, a cui seguono inevitabilmente delle conseguenze. Qui a Camdalù, l'altra settimana, è stato accompagnato all'eterno riposo il signore di Camdalù, Charles Foster Kane, potente figura del nostro secolo, vero Gran Khan americano. In questo edificio cadente, che ospitava un quotidiano alla vigilia del fallimento, ebbe inizio l'impero di Kane, che all'apogeo del suo fulgore ha avuto in suo potere 37 giornali, 2 sindacati, numerose stazioni radio, un impero che dominava un impero. E inoltre catene di negozi, cartiere, case d'affitto, industrie, foreste, linee di navigazione, un impero che per 50 anni si impinguò del rivolo incessante di ricchezza scaturito da una miniera d'oro, terza per importanza nel mondo. Quello che nella finzione è Charles Foster Kane, il protagonista del capolavoro Quarto Potere di cui avete sentito le prime battute, nella realtà ha un nome e un volto. Si tratta di William Randolph Hearst. L'uomo a cui Orson Welles si è ispirato per la pellicola è il proprietario del New York Journal, il quotidiano che, con l'obiettivo di interrompere il dominio del World di Pulitzer, inizia un lungo duello all'ultimo scandalo. e la nascita del cosiddetto yellow journalism, un giornalismo le cui abbondanti tirature devono fare i conti con speculazioni e metodi al limite della professionalità. Una battaglia di titoli a caratteri cubitali e smentite, in cui la frenetica New York viene coinvolta. Ma quella che adesso è una vita circondata da denaro e nemici scomodi, oltre a successo e raduni di massa, troverà il tempo per sedersi intorno a un tavolo ed estrarre un dono. Ci vorranno un pizzico di fortuna e un incontro con uno sguardo pacato. Tra poco, a Destini Incrociati. Happiness coming and going. I watch you look at me, watch my fever growing. I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? Destini incrociati. Siamo a New York alla fine del XIX secolo, una città scossa da una guerra combattuta all'ultimo scoop. Joseph Pulitzer, lasciate alle spalle le difficoltà del suo arrivo negli Stati Uniti, è ora a capo del New York World, quotidiano con cui ha deciso di riscrivere il concetto di giornalista, il mestiere con cui si è costruito una vita. L'ungherese ha scelto una via laterale, vicina agli immigrati e alla povera gente, ma non sempre in linea con l'etica che fino ad ora ha caratterizzato la professione. A riempire le pagine, infatti, sono articoli di sicuro impatto, mandati in stampa grazie a metodi talvolta discutibili. È un giornalismo fatto di scandali e sensazionalismi, garanzia di tirature record e di frequenti scontri. Quello che agli occhi della gente è diventato un magnate in bilico tra il cinismo e la filantropia è un uomo che sta cercando una morale a tutto questo gran baccano. Joseph Pulitzer ha ben chiare in testa le qualità e gli scopi che un cronista deve avere. Sa perfettamente quali sono i requisiti di una buona stampa ed è consapevole di avere intrapreso un percorso lastricato di ghiaccio duro e freddo, ma ha qualcosa in mente. Gli manca solo l'ultimo tocco, una di quelle idee che portano al lieto fine e che rimettono in sesto tutti i cocci lasciati per strada. Ha solo bisogno di qualcuno che lo guardi negli occhi e veda un uomo con un sogno nel cassetto, e non uno straniero col pelo sullo stomaco che ha fatto fortuna. Se c'è un posto a New York che possiede qualcosa di magico, quel posto è senza dubbio Broadway. Letteralmente la parola significa via larga. Geograficamente è la strada che attraversa per intero Manhattan prima di tuffarsi nel Bronx. Nell'immaginario comune Broadway è la patria del musical, con i suoi mille spettacoli e le sue luci scintillanti. Ma c'è dell'altro. Se ci spostiamo un po' dal melodico frastuono dei teatri e arriviamo al 2690 di questa strada, vicino all'incrocio con la 115esima, troviamo un edificio storico, imponente. Un edificio che usa sfornare premi Nobel come fossero noccioline. È la Columbia University. È qui che incontriamo il nostro secondo protagonista di oggi. Il suo nome è Nicholas Murray Butler. Nicholas Murray Butler. La storia di Butler appare molto meno movimentata di quella di Pulitzer, ma non è certo inferiore in quanto a risultati. Nato Elizabeth, New Jersey, figlio di Henry Butler, un fabbricante, e Maria Murray Butler, figlia di un sacerdote e scrittore, Nicholas si dimostra presto uno studente brillante. Nel 1882, all'età di 20 anni, consegue la laurea. Nel 1883 un master e nel 1884 un dottorato di ricerca sempre alla Columbia College. Dopo un viaggio in Europa, accetta un incarico nello staff del Dipartimento di Filosofia alla Columbia College, che qualche anno dopo diventerà Columbia University. Nei 15 anni che precedono l'arrivo del XX secolo, Butler si mette molto in evidenza. Nel giro di 4 anni riesce a ottenere una forma amministrativa per la sua teoria filosofica della pedagogia attraverso la definizione di un istituto che diviene noto come Collegio Docenti. Fonda la Review Educational, scrive relazioni sui sistemi educativi statali e locali, in qualità di membro del New Jersey Board of Education dal 1887 al 1895, e partecipa alla formazione del College Entrance Examination Board. Butler non è precisamente un uomo d'azione, ma si dà un grande affare ed è un ottimo educatore, merito della sua filosofia. L'ottimismo è indispensabile per il raggiungimento dei propri scopi ed è anche il fondamento del coraggio e del vero progresso. La personalità e la saggezza di Butler faranno breccia nelle personalità più eminenti. Durante la sua vita potrà vantare la conoscenza di numerose figure di prestigio, tra cui presidenti e statisti stranieri. Tra tutte spicca quella con Theodore Roosevelt, uno dei presidenti americani più amati, che gli affibbierà il simpatico soprannome di Nicholas Miraculous Butler. Per ora, tuttavia, è un professore in carriera, su cui il Partito Repubblicano ha messo gli occhi sopra. Politica, circoli prestigiosi e uomini potenti sono le stesse realtà che circondano Pulitzer. L'incontro sembra inevitabile. Il primo approccio tra i due avviene da lontano. Il 15 febbraio 1898, una nave della Marina Militare Americana, la Maine, esplode nelle vicinanze del porto dell'Havana, a Cuba. Mentre le indagini tentano di stabilire se si tratti di un incidente o di un attentato, la stampa, compresa quella del nostro Pulitzer, mette da parte i dubbi e spinge l'opinione pubblica verso un desiderio di vendetta, puntando l'indice contro i colonizzatori spagnoli e mettendo pressione al governo del presidente McKinley e del suo futuro successore, Theodore Roosevelt. Quest'ultimo, irritato dal grande baccano mediatico, decide di andare a combattere in prima persona, lasciando gli incarichi governativi e premurandosi di mandare dettagliati resoconti degli scontri. Una specie di guerra nella guerra. Nicholas Butler osserva da lontano, sostenendo l'amico Roosevelt, incuriosito dai metodi giornalistici di Pulitzer. La guerra ispano-americana si conclude con una rapida vittoria degli Stati Uniti. Il bollettino per Pulitzer è meno confortante. L'ennesima battaglia lo ha minato fisicamente e lo costringe ad abbandonare la direzione del giornale. Davanti a lui si spalanca una nuova opportunità. Ora il suo obiettivo è seduto sulla cattedra più alta della Columbia University e si chiama Nicholas Butler. Che mi sembrano sempre più felici di me. Qualche consiglio da darmi? Certo, ragazzo. Non finire mai una frase con una preposizione, non la cominciare mai con i due punti. E mai restare solo al cesso con Pensinger. L'uomo che sostituisce Joseph Pulitzer alla direzione del World si chiama Frank Cobb e assomiglia in maniera impressionante al giovane giornalista che nel film di Billy Wilder, Prima Pagina, chiede consiglio a Jack Lemmon. Il suo nuovo incarico è caratterizzato da una serie infinita di scontri e battibecchi con il nostro protagonista, che dalla sua residenza del Maine fa fatica a digerire il passaggio da direttore giornalista a semplice editore. È comprensibile. Stiamo parlando di un uomo che soleva arrivare in ufficio prima di ogni altro e che se ne andava solo dopo che il giornale era andato in stampa. Il rapporto crescerà e migliorerà con il passare degli anni e anche il quotidiano stesso ne trarrà beneficio. Per Pulitzer, sul tavolo dello studio, sopra tutti gli altri fogli, c'è ora un biglietto con un numero di telefono. È quello dell'ufficio del presidente della Columbia University, il repubblicano Miraculous Butler. Il magnate ungherese ci aveva provato già qualche anno prima, nel 1892. Aveva incontrato l'allora presidente Seth Low e aveva provato a spiegargli quello che aveva in mente, ovvero il ruolo del giornalismo e quanto fosse importante insegnare un mestiere così delicato. Lo aveva fatto a modo suo, giocando con il fruscio delle banconote che era deciso a mettere in tavola. Ma quel suo fare così stravagante, quell'aria un po' arrogante, lo avevano tradito. Senza parlare poi della fama e delle dicerie. A Seth Low mancava la lungimiranza necessaria. Ma ora seduto sulla poltrona c'è un altro uomo. Un uomo austero, altrettanto deciso, con una profonda conoscenza dell'università che rappresenta e di ciò di cui ha bisogno. Nicholas Butler accoglie Pulitzer nel suo ufficio e accetta volentieri di ascoltare le parole di quell'instancabile, danaroso e strambo uomo di stampa. Seduti uno di fronte all'altro, il presidente e il magnate cominciano a parlare. Butler riesce a fare quello che a Lowe non era riuscito, mette in un angolo le stravaganze del suo interlocutore e si concentra su ciò che l'ungherese gli sta dicendo. Scopre dettagli inaspettati. Pulitzer è un amante della storia e dell'arte, in particolare dei ritratti di personaggi illustri dipinti da pittori famosi. È anche un grande appassionato di musica classica. Tra i suoi assistenti ci sono ottimi pianisti, adora Wagner su tutti, oltre a Beethoven e Mozart. Dopotutto, non sembra così eccentrico. Dopo un po', la conversazione si sposta verso l'argomento principale, la stampa e i giornalisti. Pulitzer detta il suo credo. Una stampa cinica e mercenaria, prima o poi, creerà un pubblico ignobile. Un'opinione pubblica ben informata è la nostra corte suprema. Perché ad essa ci si può sempre appellare contro le pubbliche ingiustizie, la corruzione, l'indifferenza popolare o gli errori del governo. Una stampa onesta è lo strumento efficace di un simile appello. Alle parole, l'ungherese fa seguire i fatti. La sua proposta è quella di istituire, presso la Columbia University, una scuola di giornalismo che insegna agli aspiranti cronisti il mestiere. Una scuola che diventi un punto di riferimento per chiunque voglia intraprendere questa carriera, che indichi i punti cardine e la deontologia, che contribuisca a rafforzare l'etica e che sia di stimolo per tutti i reporter del mondo. Le parole che si susseguono si giovano dell'impareggiabile fascino che l'attaccamento a questo lavoro gli hanno donato. Poi arriva l'immancabile pulizzerata. $2 milioni sull'unghia messi a disposizione dell'università per realizzare il suo sogno. Butler è scosso, non lo dà certo a vedere, ma è rimasto colpito dall'amorevole furia da cui è stato travolto. Ripensa a ciò che aveva detto qualche tempo prima. Il mondo si divide in 3 categorie di persone. Un piccolissimo numero che fa accadere gli avvenimenti. Un gruppo un po' più importante, che veglia alla loro esecuzione e assiste al loro compimento. E infine, una vasta maggioranza che giammai saprà ciò che in realtà è accaduto. La stretta di mano che conclude la chiacchierata è significativa. Assomiglia a un patto tra gentiluomini che, pur non condividendo molti punti di vista, sanno riconoscere il valore delle cose. Joseph Pulitzer e Nicholas Butler probabilmente non andranno mai a cena insieme, ma questo non gli impedirà di brindare. Destini incrociati. Siamo a New York, la mela più grande del mondo, e il XX secolo ha appena compiuto 2 anni. Al 2690 di Broadway, Nicholas Murray Butler, insigne studioso, repubblicano convinto e presidente della Columbia University, ha da poco terminato il suo colloquio con il poliedrico magnate Joseph Pulitzer. L'americano nato in Ungheria ha appena messo nelle mani di Butler la sua eredità, $2 milioni e la promessa di creare una grande scuola di giornalismo, istituto a cui si dovrà affiancare un premio annuale che vada a incoronare coloro che si distingueranno nella professione, un premio che diventerà presto leggenda. Butler è decisamente un uomo da grandi imprese. Durante la sua presidenza, la Columbia conoscerà uno sviluppo notevole, non solo attraverso l'ampliamento della struttura, ma anche con l'aumento del corpo studentesco, che nel giro di una ventina d'anni passa da 4.000 a quasi 40.000 iscritti. L'università newyorkese continuerà a crescere anche dopo, diventando una delle più celebri del mondo. È difficile scegliere quale sia il modo migliore per celebrare Butler, considerato che oltre al riconoscimento per il lavoro svolto nella sua università, avrà anche il merito di vincere il premio Nobel per la pace nel 1931 insieme alla sociologa Jane Addams per il loro contributo nel miglioramento della società e nella promozione di una pace mondiale. Forse perché si stenta a credere che un repubblicano passi per antimilitarista, ma la sua decisione di realizzare il sogno di Pulitzer ha decisamente un fascino particolare, considerate le divergenze che i due pensieri avrebbero potuto incontrare. Evidentemente il soprannome affibbiatogli da Roosevelt, Miraculous, era proprio azzeccato. Nicholas ci mette 10 anni, ma alla fine ci riesce. E ci riesce da solo, perché l'inimitabile ed effervescente Joseph Pulitzer deve fare i conti con la vecchiaia, la malattia e l'eterna lotta che ha scelto di combattere e che lo porterà a emettere l'ultimo ruggito. Pochi anni prima della sua morte, infatti, in seguito a un'accusa lanciata dal suo giornale verso il governo degli Stati Uniti, imputato di aver effettuato un pagamento illegale di $40 miliardi alla società francese Canale di Panama, Pulitzer viene denunciato per diffamazione dall'eterno rivale Theodore Roosevelt. Nel 1909 i tribunali respingeranno le accuse. 2 anni dopo, Joseph Pulitzer morirà, appena in tempo per l'ultimo ruggito. Il 30 settembre 1912, 10 anni dopo l'incontro tra i due protagonisti, la Columbia University Graduate School of Journalism prende vita, sotto lo sguardo compiaciuto di Nicholas Butler. 4 anni dopo, conterà 180 iscritti, tra cui 36 donne. Alcuni di loro, secondo le disposizioni dello stesso Pulitzer, avranno la possibilità di accedere alla scuola senza esame in base a una valutazione che prende in considerazione la maturità, l'esperienza e la forma fisica. È l'inconfondibile Zampino dell'ungherese. Un anno più tardi, nel 1917, viene assegnato per la prima volta il premio Pulitzer, il riconoscimento per i giornalisti e i fotoreporter che si sono distinti durante l'anno nei vari settori dell'informazione. Col passare degli anni il premio si allargherà anche alla narrativa, alla storia, alla drammaturgia, fino a includere i compositori. Oggi il Pulitzer è diviso in 20 categorie, in ognuna delle quali il vincitore riceve un certificato e una ricompensa in contanti di $10,000. Il vincitore nella categoria di pubblico servizio nel giornalismo riceve una medaglia d'oro che va sempre al giornale, anche se il giornalista può essere nominato nella citazione. Ma più in generale, il Pulitzer crescerà in prestigio, divenendo un simbolo e un obiettivo cui tantissimi eccellenti professionisti dedicheranno la vita. Mai come in questo caso il merito va condiviso. Da una parte, l'eccentrico Pulitzer, immigrato dalle mille risorse che ha avuto il merito di avvistare il sogno americano dalla nave su cui era imbarcato. Dall'altro, il previdente Nicholas Murray Butler, zelante e studioso, capace di ascoltare oltre che di leggere, uomo di cultura dalle amicizie potenti e che ha saputo buttare lo sguardo oltre le apparenze per vedere quello che altri solitamente si limitano a malapena a constatare. In mezzo, il quarto potere, una realtà che ancora oggi, a distanza di anni, va in stampa, in attesa di capire chi sia il vero padrone. Ehi! Hutchinson! Questo baccano, che succede? È la stampa, Belletta, la stampa! E tu non ci puoi far niente! Niente!